Quante volte il giorno mi ha colta in un palazzo risonante di armonia, o nei prati umidi di rugiada mattutina, o nel silenzio di una cella austera, dimenticando la legge del riposo che l'ombra impone a tutte le creature viventi e che è diventata impotente per gli esseri civilizzati. Quale esaltazione sovrumana sosteneva il mio spirito nell'inseguimento di qualche chimera, mentre il mio corpo indebolito e spezzato reclamava il sonno, senza che io mi degnassi di notare le sue rivolte? Ve l'ho detto. Lo spiritismo, insegnato alle nazioni, prima come fede religiosa, poi come legge ecclesiastica, ha finito per trasformarsi in morale, abitudini e gusti. Tutti i bisogni fisici sono stati domati e gli appetiti e i sentimenti sono stati poeticizzati. Il piacere ha abbandonato i letti d'erba e le culle di vite per sedersi su velluti a tavoli carichi d'oro. La vita elegante, irritando gli organi e sovraeccitando gli spiriti, ha chiuso la casa dei ricchi ai raggi del giorno, ha acceso le torce per illuminare il loro risveglio e ha fatto sì che la vita venga vissuta nelle ore che la natura ha designato per la sua abdicazione, cioè per dormire. Come resistere a questa sfida febbrile e mortale? Come correre in questa carriera ansimante senza esaurirsi prima di raggiungere la metà del suo termine? Così eccomi qui, vecchia, come se avessi 1000 anni. La mia decantata bellezza è ora solo una maschera ingannevole sotto la quale si nascondono stanchezza e agonia. Nell'epoca delle passioni energetiche non abbiamo più passioni. Non abbiamo più nemmeno desideri, se non quello di terminare la nostra fatica e riposare in una bara. Per quanto mi riguarda, ho perso il sonno, non so più cosa sia, non so come chiamare questo intorpidimento pesante e doloroso che pesa sul mio cervello e lo riempie di sogni e di sofferenza per alcune ore della notte, ma il sonno della mia infanzia, quel sonno buono, dolce, così puro, così fresco, così benefico, quel sonno che un angelo sembrava proteggere con le sue ali e che una madre cullava con il suo canto, quella calma ristoratrice della doppia esistenza dell'uomo, quel morbido calore diffuso sulle membra, quel respiro tranquillo e regolare, quel vello d'oro e d'azzurro calato sugli occhi e quel respiro arioso che il soffio della notte fa scorrere tra i capelli e intorno al collo, quel sonno. Io l'ho perso e non lo troverò mai più. Una sorta di delirio amaro e oscuro incombe sulla mia anima, privata di una guida. Il mio petto bruciante e oppresso si alza con fatica, senza poter inalare i sottili profumi della notte. La notte è diventata per me un'atmosfera avara e disseccante. I miei sogni non hanno più quel disordine amabile e grazioso che riassumeva tutta una vita di incanto in poche ore di illusioni. I miei sogni hanno un carattere spaventoso, di verità. Gli spettri di tutte le mie delusioni li attraversano di continuo. Ogni notte più deplorevoli, più orrendi. Ogni fantasma, ogni mostro evocato dall'incubo. È un'allegoria chiara e suggestiva che risponde a qualche sofferenza profonda e segreta della mia anima. Vedo fuggire le ombre degli amici che non amo più. Sento le grida di allarme di coloro che sono morti e le cui anime vagano nel buio dell'altra vita. E poi io stessa scendo, pallida e desolata, nell'abisso di quel pozzo senza fondo che si chiama eternità e la cui bocca mi sembra sempre spalancata ai piedi del mio letto, come un sepolcro aperto. Sogno di scendere lentamente i gradini, di cercare con occhio ansioso un tenue raggio di speranza in questi abissi sconfinati e di trovare come torcia sul mio cammino solo gli sbuffi di una luce infernale, rossa e sinistra, che mi brucia gli occhi fino in fondo al cranio e mi porta sempre più fuori strada. Questi sono i miei sogni. È ancora la ragione umana che lotta con il dolore e l'impotenza. Questo tipo di sonno accorcia la vita invece di prolungarla, spende un'enorme quantità di energia. Il lavoro del pensiero più disordinato, più fantastico nei sogni, è anche più violento e rude. Le sensazioni sono risvegliate dalla sorpresa, amare, terribili e strazianti, come lo sarebbero di fronte alla realtà. Lo giudichi, Trenmore, dall'impressione che ti lascia la rappresentazione drammatica di una passione fortemente espressa. Nei sogni l'anima assiste agli spettacoli più terribili e non riesce a distinguere l'illusione dalla verità. Il corpo si agita, si contorce e pulsa sotto terribili emozioni di terrore e sofferenza, senza che la mente abbia la consapevolezza del suo errore per darsi, come a teatro, la forza di andare fino in fondo. Ci si sveglia madide di sudore, di lacrime, con la mente afflitta da una stupida costernazione e stanca per un'intera giornata dell'inutile esercizio che le è stato appena imposto. Ci sono sogni ancora più dolorosi. È credersi condannati a compiere qualche impresa stravagante, qualche lavoro impossibile, come contare le foglie in una foresta, o correre veloci e leggere come l'aria. Attraversare veloci come il pensiero valli, mari e montagne per raggiungere un'immagine fugace e incerta che sempre ci precede, sempre ci attrae cambiando aspetto. Non hai mai fatto questo sogno, Trenmore, quando c'erano desideri e fantasie nella tua vita? Oh, quanto spesso questo fantasma ritorna, come mi chiama, come mi convoca. A volte è nella forma pallida e delicata di una fanciulla che fu mia compagna e mia sorella nel mattino della mia vita e che più felice di me morì nel fiore della sua giovinezza e delle sue illusioni. Mi invita a seguirla nel luogo del riposo e della calma. Cerco di seguirla, ma come una sostanza eterea portata via dal vento, mi precede, mi abbandona e scompare tra le nuvole. Eppure sto ancora correndo, perché ho visto un altro spettro emergere dalle rive nebbiose di un mare immaginario, che ho scambiato per il primo e che inseguo con lo stesso ardore, ma quando si gira è un oggetto orrendo, un demone ironico, un cadavere insanguinato, una tentazione o un rimorso. E corro ancora, corro perché un incantesimo fatale mi attira verso questo proteo che non si ferma mai, che a volte sembra essere inghiottito nell'onda rossa dell'orizzonte e che all'improvviso emerge dalla terra sotto i miei piedi per darmi una nuova direzione. Ahimè, quanti universi ho attraversato in questi viaggi dell'anima, ho attraversato le steppe imbiancate delle regioni ghiacciate. Ho gettato un rapido sguardo sulle profumate savane dove la luna sorge così bella e così bianca. Ho toccato sulle ali del sonno quei vasti mari la cui immensità spaventa la mente. Ho preceduto i migliori velieri e le grandi rondini da preda. Nel giro di un'ora ho visto il sole sorgere sulle coste della Grecia e tramontare dietro le montagne azzurre del Nuovo Mondo. Ho visto sotto i miei piedi i popoli e gli imperi, ho contemplato da vicino il volto rosso delle stelle erranti nelle solitudini dell'aria e nelle pianure del cielo, ho incontrato il volto spaventato di ombre disperse da un soffio di notte. Quali tesori dell'immaginazione, quali meravigliose ricchezze della natura non ho esaurito in queste vane allucinazioni del sonno. Quindi, a cosa mi è servito viaggiare? Ho mai visto qualcosa che assomigliasse alle mie fantasie? Oh, come mi è sembrata povera la natura, il cielo spento e il mare stretto al prezzo delle terre, dei cieli e dei mari che ho attraversato nel mio volo immateriale. Cosa rimane alla vita reale di bellezze da affascinare? All'anima umana di poteri da godere e ammirare? Quando l'immaginazione ha consumato tutto in anticipo, abusando del suo potere. Questi sogni erano però l'immagine della vita, me la mostravano oscurata dal bagliore troppo vivo di una luce soprannaturale, come i fatti del futuro e la storia del mondo sono scritti in modo oscuro e terribile nei sacri poemi dei profeti. Trascinata da un'ombra attraverso gli scogli, i deserti, gli incanti e gli abissi della vita, ho visto tutto senza potermi fermare, ho ammirato tutto di sfuggita, senza riuscire a godere di nulla. Ho affrontato tutti i pericoli senza soccombere a nessuno di essi, sempre protetta da questo potere fatale che mi porta via nel suo turbine e mi isola dall'universo che fa passare sotto i miei piedi. Questo è il sonno che ci siamo dati. I giorni servono per riposare dalle notti, sprofondate in una sorta di annichilimento. Le ore di attività di tutto il creato ci trovano disinvolte e senza vita. In attesa che la sera si svegli e la notte trascorra in vani sogni le poche forze raccolte durante il giorno. La mia vita è andata avanti così per molti anni. Tutta l'energia della mia anima divora e uccide se stessa nell'esercitarsi e tutto il suo effetto esterno è quello di indebolire e distruggere il corpo. Non ho dormito più tranquillamente sul mio letto di Erika che su quello di Raso, solo che non sentivo le ore suonare alle porte della chiesa e potevo immaginare di aver perso solo una lunga ora invece di un'intera notte a causa di questa insonnia mista a un cattivo sonno. A mio parere, i luoghi abitati sono legati a una grande infelicità e l'indomabile necessità di sapere sempre a che ora del giorno ci si trova. Invano si cerca di evitarlo. Ne siamo avvertiti durante il giorno dall'uso del tempo da parte di tutto ciò che ci circonda e di notte, nel silenzio, quando tutto dorme. E l'oblio sembra aleggiare su tutte le esistenze, il suono malinconico degli orologi conta impietosamente i passi che fai verso l'eternità e il numero di momenti che il passato ti divora senza ritorno. Come sono gravi e solenni queste voci del tempo che si levano come un grido di morte e che si infrangono indifferentemente sulle pareti sonore della dimora dei vivi o sulle tombe senza eco del cimitero, come ti afferrano e ti fanno svolazzare con rabbia e paura sul tuo letto ardente. Un altro. Mi sono spesso detta, un'altra parte della mia esistenza che si è staccata, un altro raggio di speranza spento, un'altra ora, sempre ore perse, e tutte che cadono nell'abisso del passato senza portare quello in cui mi sentirò viva. Ho trascorso la giornata di ieri in una profonda depressione. Non ho pensato a nulla, credo di aver avuto un giorno intero di riposo, ma non mi sono accorta che stavo riposando. Quindi qual è il punto? La sera ho deciso di non dormire e di usare la forza che la mia anima trova per i sogni per portare avanti un'idea come prima. Da tempo ho smesso di lottare contro la veglia o il sonno. Stasera volevo riprendere la lotta e, visto che la materia non può spegnere lo spirito che è in me, almeno far sì che lo spirito domi la materia. Ebbene, non ci sono riuscita. Non ci sono riuscita, schiacciata da entrambi. Passai la notte seduta su una roccia, con il ghiacciaio ai miei piedi, che la luna faceva scintillare come i palazzi di diamanti dei racconti arabi, e un cielo puro e freddo sopra la mia testa, dove le stelle brillavano ampie e bianche come lacrime d'argento su un sudario. Questo deserto è veramente bello. E il poeta Stenio vi avrebbe trascorso una notte di estasi e di febbre lirica. Io, ahimè, sentivo solo indignazione e mormorio nel mio cervello, perché questo silenzio mortale pesava sulla mia anima e la offendeva. Mi chiedevo a cosa servisse quest'anima curiosa, avida, inquieta, incapace di rimanere qui sulla terra per andare sempre a bussare a un cielo sfacciato che non si apre mai al suo sguardo, che non le risponde mai con una parola di speranza. Sì. Odiavo questa natura radiosa e magnifica, perché stava lì davanti a me come una stupida bellezza che sta muta e orgogliosa sotto lo sguardo degli esseri umani e crede di aver fatto abbastanza mostrandosi. Poi sono ricaduta in questo pensiero scoraggiante. Quando lo saprò, mi compatirò ancora di più di non poterlo fare. E invece di cadere in un'insensibilità filosofica, sono caduta nella noia di questo nulla in cui è incastrata la mia esistenza. 8. Bene, Trenmore, lascio il deserto. Vado a caso a cercare movimento e rumore tra gli uomini. Non so dove andrò. Stenio si è rassegnato a vivere un mese lontano da me, che io passi questo tempo qui o altrove per lui non ha importanza. Voglio scoprire una cosa. Se sto meglio o peggio su questa terra, con o senza un affetto. Quando ho iniziato ad amare Stenio, ho pensato che questo affetto mi avrebbe portato oltre il punto in cui mi ha lasciato. Ero così orgogliosa di credere in un residuo di giovinezza e di amore, ma tutto questo è già accaduto nel dubbio e non so più cosa provo o cosa sono. Volevo la solitudine per raccogliermi, per interrogarmi, perché abbandonare la propria vita senza remi e senza timone in un mare piatto e spento significa incagliarsi nel modo più triste, meglio la tempesta, meglio il fulmine, almeno ti vedi, ti senti morire. Ma per me La solitudine è ovunque ed è una follia cercarla nel deserto piuttosto che altrove, solo che lì è più calmo, più tranquillo. Beh, questo mi uccide. Ho scoperto, credo, cosa mi sostiene ancora in questa vita di disincanto e stanchezza. È la sofferenza. La sofferenza eccita, ravviva, irrita i nervi, fa sanguinare il cuore, accorcia l'agonia. È la convulsione violenta e terribile che ci solleva dalla terra e ci dà la forza di salire verso il cielo per maledire e gridare. Morire nel letargo non è né vivere né morire. È perdere tutti i vantaggi, è ignorare tutti i piaceri della morte. Qui tutte le facoltà si addormentano. Per un corpo paralizzato in cui l'anima si sarebbe mantenuta vigorosa e giovane, quest'aria vivace, questa vita agreste, questa assenza di sensazioni violente, queste lunghe ore di riposo, queste abitudini frugali sarebbero benefiche, ma è la mia anima che rende il mio corpo debilitato. E finché la mia anima soffre, il corpo deve appassire, indipendentemente dagli influssi salutari dell'aria e della dieta animale. Questa solitudine mi pesa molto in questo momento. Strana cosa. L'ho amata tanto e non l'amo più. Oh, è terribile, Trenmore. Quando mi mancava il mondo intero, mi sono rifugiata nel seno divino. Andavo a invocarlo nel silenzio dei campi. Mi piaceva rimanere lì per giorni, per mesi e mesi, assorta nel pensiero di un futuro migliore. Oggi sono così esausta che nemmeno la speranza mi sostiene più. Credo ancora perché lo desidero, ma quel futuro è così lontano e questa vita non finisce. Che cosa è? È impossibile affezionarsi ad essa e goderne. Tutto è perduto, senza ritorno. Ci sono giorni in cui lo penso e quei giorni non sono i più crudeli, quei giorni sono devastanti. La disperazione è senza pungiglione, il nulla senza terrore. Ma nei giorni in cui, con un caldo soffio d'aria, un puro raggio del mattino si risveglia in me la velleità dell'esistenza, io sono la più sfortunata degli esseri. Paura, ansia, dubbi mi attanagliano. Dove fuggire? Dove posso rifugiarmi? Come uscire da questo marmo che, secondo la bella espressione del poeta, mi arriva fino alle ginocchia e mi tiene in catene come il sepolcro tiene i morti? Beh, soffriamo. È meglio che dormire. In questo deserto pacifico e silenzioso, la sofferenza è spenta, il cuore è impoverito. Il divino, nient'altro che il divino, è troppo o troppo poco. Nel trambusto della vita sociale non è una compensazione sufficiente, una consolazione alla nostra portata. E da solo è un pensiero troppo immenso, schiaccia, spaventa, fa nascere il dubbio entra nell'anima, nell'anima che sogna, la fede scende nell'anima che soffre. E poi ero abituata alla mia sofferenza. Era la mia vita, era la mia compagna, era mia sorella, crudele, implacabile, senza pietà, ma orgogliosa, ma assidua, ma sempre scortata da una stoica risoluzione e da austeri consigli. Torna, mio dolore, torna. Perché mi hai lasciata? Se non posso avere altro amico che te, almeno non voglio perderti. Non siete forse la mia eredità e la mia sorte? È solo grazie a te che l'uomo è grande. Se potesse essere felice in questo mondo di oggi, se potesse attraversare con la fronte serena e vedere con occhio tranquillo le brutture della razza umana che lo circonda, non sarebbe altro che quella folla stupida e vigliacca che si ubriaca di crimini e si addormenta nel pantano. Sei tu, o dolore sublime, che ci richiami al sentimento della nostra dignità, facendoci piangere sull'errore degli uomini. Sei tu che ci metti a parte e ci poni, pecorelle del deserto, sotto la mano della pastora celeste, che ci guarda, ci compatisce e forse aspetta di consolarci. Oh, l'uomo che non ha sofferto non è nulla. È un essere incompleto, una forza inutile, un materiale grezzo e senza valore, che lo scalpello dell'operaio forse romperà nel tentativo di plasmarlo. E quindi stimo Stenio meno di te, Trenmore. Anche se Stenio non ha un solo vizio e tu li hai tutti. Ma tu, acciaio grezzo. Il divino ti ha fuso nella fornace ardente e dopo averti contorto in 100 modi ti ha reso un metallo solido e prezioso. Che ne sarà di me? Oh, se solo potessi librarmi come te e diventare più potente di tutti i mali e i beni della vita. 9. Lelia scese dalle montagne e con un po' d'oro versato sul suo cammino attraversò rapidamente le valli di confine. Pochi giorni dopo aver dormito sull'erica di Monteverdor, sfoggiò il lusso di una regina in una di quelle belle città dell'altopiano inferiore che competono tra loro in opulenza e che vedono ancora fiorire le arti nella terra da cui sono giunte a noi. Come Tremmor, che era stato ringiovanito e rafforzato in prigione, Lelia sperava di rinascere con la forza del suo coraggio, in mezzo a questo mondo che odiava e a queste gioie che le facevano orrore. Decise di superare se stessa, di domare le rivolte del suo spirito selvaggio, di gettarsi nel flusso della vita, di rimpicciolirsi per un po', di stordirsi per vedere da vicino questa fogna di società e riconciliarsi con se stessa attraverso il confronto. Lelia non aveva simpatia per la razza umana, anche se soffriva degli stessi mali e riassumeva in sé tutti i dolori seminati sulla faccia della terra. Ma questa razza cieca e sorda sentiva la sua disgrazia e il suo abbattimento senza volersene rendere conto. Essi, ipocriti e presuntuosi, nascondevano le ferite del loro petto e l'esaurimento del loro sangue sotto lo splendore di una vana poesia. Arrossirono nel vedersi così vecchi, così poveri, in mezzo a una generazione di cui non vedevano la vecchiaia e la povertà irrompere da tutte le parti. E per sembrare giovani, come quelli che credevano tali, mentirono, dissimularono tutte le loro idee, negarono tutti i loro sentimenti. Si vantavano dell'innocenza e della semplicità, loro che erano decrepiti fin dal seno materno. I secondi, meno sfacciati, si sono lasciati trasportare dal secolo. Lenti e debilitati, hanno seguito il mondo senza sapere perché, senza chiedersi dove fosse la causa e dove fosse il fine. Erano troppo mediocri per natura, per procurarsi molto della loro noia. Piccoli e deboli si sono lasciati appassire con rassegnazione. Non si chiedevano se potevano trovare aiuto nella virtù o nel vizio. Erano ugualmente al di sotto dell'una e dell'altro. Senza fede. Senza ateismo, illuminati fino al punto di perdere i benefici dell'ignoranza, ignoranti fino al punto di voler sottomettere tutto a sistemi ristretti, essi potevano vedere di quali fatti era composta la storia materiale del mondo. Ma non avevano mai voluto studiare il mondo morale o leggere la storia nel cuore dell'uomo. Erano stati fermati dall'inflessibilità imbecille dei loro pregiudizi. Erano gli uomini del giorno, che ragionavano sui secoli passati e futuri senza rendersi conto che i loro geni erano passati tutti per lo stesso stampo e che riuniti in massa avrebbero potuto ancora sedersi sui banchi della stessa scuola e seguire la legge dello stesso pedante maestro. Erano pochi, ma rappresentavano una potenza sociale, erano passati attraverso l'atmosfera velenosa dei tempi senza perdere nulla del vigore primitivo della specie, erano uomini eccezionali rispetto alla folla, ma tra di loro erano tutti uguali. L'ambizione, unica molla di un'epoca priva di credenze, ha annientato la nobiltà maschile e caratteristica conferita a ciascuno di loro per fonderle tutte in un tipo di bellezza grossolana e poco prestigiosa. Erano ancora gli uomini di ferro del Medioevo. Avevano l'aspetto fulvo, i pensieri forti, il braccio robusto, la sete di gloria e il gusto del sangue, proprio come se si fossero chiamati Armagnac e Borgogna, ma a questi grandi organismi che la natura produce ancora, mancava la linfa dell'eroismo. Tutto ciò che la fa nascere e l'alimenta era morto. L'amore, la fratellanza d'armi, l'odio, l'orgoglio di famiglia, il fanatismo, tutte le passioni personali che danno intensità ai caratteri e fisionomia alle azioni. L'unico motivo di queste aspre azioni coraggiose erano le illusioni della giovinezza, distrutte in 2 mattinate, e l'ambizione virile, testarda e sporca, figlia deplorevole della civiltà. Lelia, una triste esistenza inaridita dal sentimento della sua degradazione, forse l'unica abbastanza attenta ad accorgersene, abbastanza sincera da ammetterlo a se stessa. Lelia, piangendo le sue passioni spente e le sue facoltà perdute, attraversava il mondo senza cercare pietà e senza trovare affetto. Sapeva che quegli esseri umani, nonostante la loro agitazione affannosa e gracile, non erano più attivi, più vivi di lei. Ma sapeva anche che avevano l'impudenza di negarlo o la stupidità di ignorarlo. Stava assistendo all'agonia di questa corsa mentre il profeta, seduto sul monte, piangeva su Gerusalemme, la vecchia opulenta e dissoluta che giaceva ai suoi piedi.